La guerra in Europa era finita e i vagoni pieni di morti erano un clamore lontano, ma che ancora non si spegneva. Di là stavano arrivando le idee sovversive portate dai venti incontrollabili della radio, del telegrafo e delle navi cariche di emigranti che arrivavano come una frotta attonita, sfuggendo alla fame della loro terra, inariditi dal ruggito delle bombe e dai morti che marcivano nei solchi dei campi. Erano di elezioni presidenziali e di ansia per il verso che stavano prendendo gli eventi. Il paese si svegliava. L'ondata di malcontento che agitava il popolo stava assestando duri colpi alla solida struttura di quella società oligarchica. In campagna ci fu di tutto: siccità, lumache, afta. Nel nord c'era disoccupazione e nella capitale si sentiva l'effetto della guerra lontana. Fu un anno di miseria, in cui l'unica cosa che mancò per completare il disastro fu un terremoto. La classe alta, tuttavia, padrona del potere e della ricchezza, non si rese conto del pericolo che minacciava il fragile equilibrio della sua posizione. I ricchi si divertivano, ballando il Charleston e i nuovi ritmi del jazz, il foxtrot e certe rumbe da neri che erano una meravigliosa indecenza. Ripresero i viaggi in nave in Europa che erano stati sospesi durante i 4 anni di guerra e divennero di moda altri in Nord America. Arrivò la novità del golf, che riuniva la migliore società per dare colpi con un bastone o una pallina, così come 200 anni prima facevano gli indiani in quegli stessi luoghi. Le signore si mettevano collane di perle false fino alle caviglie e cappelli a cloche calcati sulle sopracciglia. Si erano tagliate i capelli come gli uomini e si truccavano come puttane. Avevano soppresso il busto e fumavano mostrando le gambe. I signori erano affascinati dall'invenzione delle automobili nordamericane che arrivavano nel paese al mattino e si vendevano lo stesso giorno alla sera, nonostante costassero una piccola fortuna e fossero solo uno strepito di fumo e un ammasso di viti che correvano a velocità suicida lungo strade fatte per i cavalli e altre bestie naturali, ma assolutamente non per macchine fantastiche. Sui tavoli da gioco si puntavano le eredità e le facili ricchezze del dopoguerra, si stappava lo champagne ed era arrivata la novità della cocaina per i più raffinati e viziosi. La follia collettiva sembrava non avere fine, ma in campagna le nuove automobili erano una realtà così lontana come i vestiti corti e quelli che si erano liberati delle lumache dell'afta l'avevano segnato come un buon anno. Esteban Trueba e altri proprietari terrieri della regione si riunirono nel circolo del paese per tracciare l'azione politica prima delle elezioni. I contadini vivevano ancora come ai tempi coloniali e non avevano sentito parlare di sindacati, né di domeniche festive, né del salario minimo, ma già cominciavano a infiltrarsi nei fondi i delegati dei nuovi partiti di sinistra che entravano mascherati da evangelisti, con una Bibbia sotto un'ascella e un fazzoletto marxista sotto l'altra, predicando contemporaneamente la vita ascetica e la morte per la rivoluzione. Questi pranzi a base di conciliaboli dei padroni finivano con bevute impressionanti o con battaglie di galli e al sopraggiungere della notte prendevano d'assalto il Lampioncino Rosso, dove le prostitute di 12 anni e Carmelo, l'unica checca del bordello e del paese, ballavano al suono di una pianola antidiluviana sotto lo sguardo vigile della Sofia, che ormai non era più adatta a quelle baraonde, ma che ancora aveva energia per reggerle con pugno di ferro. E per impedire che i gendarmi si mettessero a rompere le scatole e i padroni a farsela con le ragazze, disturbando senza pagare. Fra tutte, Tránsito Soto era quella che ballava meglio e quella che sopportava meglio le impertinenze degli ubriachi. Era instancabile, non si lamentava mai di niente, come se avesse avuto la virtù tibetana di lasciare il suo misero scheletro di adolescente in mano a un cliente e trasferire la sua anima in una contrada lontana. A Esteban Trueba piaceva perché non aveva remore nelle innovazioni e nelle brutalità dell'amore. Sapeva cantare con voce da uccello rauco e perché una volta lei gli aveva detto che sarebbe arrivata molto lontano e questo l'aveva divertito. Non rimarrò al Lampioncino Rosso tutta la vita, patron. Me ne andrò alla capitale perché voglio diventare ricca e famosa. Esteban andava a lupanare perché era l'unico posto di divertimento del paese, ma non era uomo da prostitute. Non gli piaceva pagare per quello che poteva ottenere con altri mezzi. Tuttavia apprezzava Tránsito Soto. La ragazza lo faceva ridere. Un giorno, dopo aver fatto l'amore, si sentì generoso, cosa che non accadeva quasi mai, e chiese a Tránsito Soto se le sarebbe piaciuto che le facesse un regalo. Prestami 50 pesos, patron, chiese allora lei. È una bella somma, perché la vuoi? Per un biglietto del treno, un vestito rosso, un paio di scarpe col tacco, una bottiglia di profumo e per farmi la permanente. È tutto quello che mi serve per cominciare. Glieli restituirò un giorno, patron, con gli interessi. Esteban le diede i 50 pesos perché quel giorno aveva venduto 5 vitelli e aveva le tasche piene di banconote e perché il languore del piacere soddisfatto lo faceva diventare un po' sentimentale. L'unica cosa che mi dispiace è che non ti rivedrò, Transito. Mi ero abituato a te. Oh, sì che ci rivedremo, patron. La vita è lunga e fa molti giri. Quelle grandi mangiate al circolo, le lotte dei galli e le notti al bordello, culminarono in un piano intelligente, anche se non del tutto originale, per favorire i contadini. Offrirono loro una festa con involtini di carne e molto vino. Erano stati sacrificati alcuni buoi per arrostirli, fecero suonare canzoni alla chitarra, li rintronarono con qualche arringa patriottica e promisero che se fosse uscito il candidato conservatore avrebbero avuto un bonifico, ma che se ne usciva un altro, sarebbero rimasti senza lavoro. Inoltre controllarono le urne e corruppero la polizia. Dopo la festa, ammucchiarono i contadini in un carretto e li portarono a votare, ben sorvegliati, tra scherzi e risate. L'unica volta in cui diedero loro confidenza, compare di qua, compare di là, conti su di me, che io non le verrò meno, padroncino, così mi piace, amico, che tu abbia coscienza patriottica, guarda che i liberali radicali sono dei vigliacchi, i comunisti sono degli atei, dei figli di puttana, che si mangiano i bambini. Il giorno delle elezioni, tutto accadde come era stato previsto, in perfetto ordine. Le forze armate garantirono lo svolgimento democratico, tutto in pace, un giorno di primavera più soleggiato di altri. Un esempio per questo continente di indiani e di neri che se la spassano in rivoluzioni per abbattere un dittatore e metterne su un altro. Questo è un paese diverso, una vera repubblica. Abbiamo orgoglio civico qui. Il partito conservatore vince pulitamente, non ha bisogno di un generale perché ci siano ordine e tranquillità. Non è come quelle dittature regionali dove si ammazzano l'un l'altro mentre i gringo si portano via tutte le materie prime, disse Trueba nella sala da pranzo del circolo, brindando con un bicchiere in mano quando era venuto a conoscenza dei risultati delle votazioni. 3 giorni dopo, tornata alla quotidianità, alle Tre Marie giunse la lettera di Férula. Esteban Trueba quella notte aveva sognato Rosa. Era molto tempo che non gli succedeva. In sogno l'aveva vista con i suoi capelli di salice piangente sciolti sulle spalle come un manto vegetale che la copriva fino alla vita. Aveva la pelle dura e gelida del colore e dell'aspetto dell'alabastro, era nuda e reggeva in braccio un fagotto. Camminava come si cammina nei sogni, aureolata dal verde splendore che fluttuava intorno al suo corpo. L'aveva vista avvicinarsi lentamente e quando aveva cercato di toccarla, aveva buttato a terra il fagotto disfacendolo ai suoi piedi. Lui si era chinato, l'aveva raccolto e aveva visto una bambina senza occhi che lo chiamava papà. Si era svegliato in angoscia ed era rimasto di cattivo umore per tutta la mattinata. A causa del sogno si era sentito inquieto molto prima di ricevere la lettera di Férula. Entrò in cucina per fare colazione, come tutti i giorni, e vide una gallina che andava beccando le briciole sul pavimento. Le tirò una pedata che le aprì la pancia, lasciandola agonizzante in un alone di tripe e di piume starnazzante in mezzo alla cucina. Questo non lo calmò, anzi aumentò la sua rabbia e sentì che cominciava a soffocare. Montò a cavallo e si recò al galoppo a sorvegliare gli armenti che stavano marchiando e in quel momento giunse a casa Pedro II García, che era andato alla stazione di San Lucas a fare una commissione ed era passato dal paese per prendere la posta. Portava la lettera di Férula. La busta aspettò tutta la mattinata sul tavolo dell'entrata. Quando Esteban Trueba arrivò, andò direttamente a fare il bagno perché era coperto di sudore e di polvere, impregnato dell'odore inconfondibile delle bestie terrorizzate. Poi si sedette alla sua scrivania a fare dei conti e ordinò che gli servissero da mangiare su un vassoio. Non vide la lettera della sorella fino a notte, quando percorse la casa, come faceva sempre prima di andare a letto, per controllare che le luci fossero spente e le porte chiuse. La lettera di Ferula era uguale a tutte le altre che aveva ricevuto da lei, ma quando la prese in mano seppe, ancora prima di aprirla, che il suo contenuto gli avrebbe cambiato la vita. Ebbe la stessa sensazione di quando aveva preso in mano il telegramma in cui sua sorella gli annunciava la morte di Rosa anni prima. L'aprì, sentendo che gli pulsavano le tempie a causa del presentimento. La lettera diceva brevemente che donna Esther Trueba stava morendo e che dopo tanti anni trascorsi a curarla e a servirla come una schiava, Ferula doveva sopportare che sua madre neppure la riconoscesse, mentre chiamava giorno e notte suo figlio Esteban perché non voleva morire senza vederlo. Esteban non aveva mai amato realmente sua madre, né in sua presenza si sentiva a suo agio, ma la notizia lo lasciò trepidante. Capì che ormai non gli servivano più i pretesti sempre nuovi che inventava per non andarla a trovare e che era giunto il momento di intraprendere la strada del ritorno alla capitale e di affrontare per l'ultima volta quella donna che era presente nei suoi incubi. Col suo rancido odore di medicine, le sue tenui lamentele, le sue interminabili preghiere, quella donna sofferente che aveva popolato di proibizioni e di terrori la sua infanzia e gravato di responsabilità e di colpe la sua vita di uomo. Chiamò Pedro II García e gli spiegò la situazione. Lo condusse alla scrivania e gli mostrò il libro di contabilità e i conti dell'emporio. Gli consegnò un mazzo con tutte le chiavi, meno quelle della cantina del vino, e gli comunicò che a partire da quel momento fino al suo ritorno lui era il responsabile di tutto quello che c'era alle Tre Marie e che qualunque stupidaggine avesse fatto l'avrebbe pagata molto cara. Pedro II García prese le chiavi, si mise il libro dei conti sotto il braccio e sorrise, senza allegria. Ognuno fa quello che può, non di più, patron, disse stringendosi nelle spalle. Il giorno dopo, Esteban Trueba rifece per la prima volta dopo anni il viaggio che l'aveva portato dalla casa di sua madre alla campagna. Se ne andò con le sue due valigie di cuoio fino alla stazione di San Lucas, prese il vagone di prima classe dei tempi della compagnia inglese delle ferrovie e percorse di nuovo i vasti campi dispiegati ai piedi della cordigliera. Chiuse gli occhi e cercò di dormire. Ma l'immagine di sua madre gli spaventò il sonno. 3. Clara Chiaroveggente. Clara aveva 10 anni quando decise che non valeva la pena di parlare e si chiuse nel mutismo. La sua vita cambiò totalmente. Il medico di famiglia, il grasso e affabile dottor Cuevas, cercò di guarirla dal silenzio con pillole di sua invenzione, con vitamine in sciroppo e pennellature di miele alborace nella gola, ma senza alcun risultato apparente. Si rese conto che i suoi medicamenti erano inefficaci e che la sua presenza metteva la bambina in stato di terrore. Quando lo vedeva, Clara cominciava a strillare e si rifugiava nell'angolo più lontano, rannicchiata come un animale vessato, sicché interruppe i suoi trattamenti e consigliò a Severo e a Nivea di portarla da un romeno di nome Rostipov, che stava suscitando scalpore in quel periodo. Rostipov si guadagnava la vita facendo trucchi da illusionista nei teatri di varietà e aveva compiuto l'incredibile prodezza di tendere un cavo dalla punta della cattedrale fino alla cupola della Hermandad Gallega all'altro lato della piazza per attraversare la strada, camminando nell'aria con una pertica come unico sostegno. A prescindere dal suo lato frivolo, Rostipov stava provocando un fermento nei circoli scientifici perché nelle sue ore libere curava l'isteria con sbarrette magnetiche e trance ipnotici. Nivea e Severo portarono Clara al consultorio che il rumeno aveva improvvisato nel suo albergo. Rostipov la esaminò con attenzione e infine dichiarò che il caso non era di sua pertinenza, dato che la piccola non parlava perché non ne aveva voglia e non perché non potesse. Comunque, di fronte all'insistenza dei genitori, preparò certe pillole di zucchero tinte di color violetta e gliele prescrisse, avvertendo che erano una medicina siberiana per curare i sordomuti. Ma la suggestione in questo caso non funzionò e la seconda boccetta venne ingoiata da Barrabas in un momento di disattenzione, senza che ciò provocasse nella bestia alcuna reazione apprezzabile. Severo e Nivea provarono a farla parlare con mezzi alla buona, con minacce e suppliche, fino a lasciarla senza mangiare, per vedere se la fame la costringeva ad aprire la bocca per chiedere la cena, ma nemmeno questo era servito. La nana era convinta che un buon spavento poteva far sì che la bambina parlasse e passò 9 anni a inventare espedienti disperati per terrorizzare Clara, ma riuscì soltanto a immunizzarla contro la sorpresa e lo spavento. Dopo poco tempo, Clara non aveva paura più di niente, non la turbavano le apparizioni di mostri lividi ed emaciati nella sua stanza, né i colpi dei vampiri e dei demoni alla sua finestra. La nana si mascherava da filibustiere senza testa, da boia della Torre di Londra, da lupo mannaro e da diavolo con le corna, secondo l'ispirazione del momento e le idee che ricavava da giornaletti del terrore che comprava a questo scopo. E sebbene non fosse capace di leggerli, ne imitava le illustrazioni. Prese l'abitudine di scivolare segretamente lungo i corridoi per balzare addosso alla bambina nel buio, di ululare dietro le porte, di nascondere insetti vivi nel letto, ma a niente raggiunse lo scopo di tirarle fuori almeno una parola. Talvolta Clara perdeva la pazienza, si gettava a terra, scalpitava e gridava, ma senza articolare alcun suono il linguaggio conosciuto. Oppure scriveva sulla lavagnetta che portava sempre con sé i peggiori insulti alla povera donna che se ne andava in cucina a piangere per l'incomprensione. Ma lo faccio per il tuo bene! Singhiozzava la nana avvolta in un lenzuolo insanguinato e con la faccia annerita da un tappo di sughero bruciato. Nivea le proibì di continuare a spaventare sua figlia. Si rese conto che lo stato di turbamento aumentava i suoi poteri mentali e provocava disordine tra le apparizioni che circondavano la bambina. Inoltre quella sfilata di personaggi truculenti stava distruggendo il sistema nervoso di Barrabas, che non aveva mai avuto un buon olfatto ed era incapace di riconoscere la nana sotto i suoi travestimenti. Il cane cominciò a fare la pipì da seduto, lasciandosi intorno un'immensa pozza e spesso batteva i denti. Ma la nana approfittava di qualunque sbadataggine della madre per persistere nei suoi intenti di curare il mutismo con gli stessi rimedi con cui si fa passare il singhiozzo. Ritirarono Clara dalla scuola delle suore, dove erano state educate tutte le sorelle del Vaie, e fecero venire professori in casa. Severo fece venire dall'Inghilterra un'istitutrice, Miss Agatha, alta, tutta del colore dell'ambra e con grandi mani da muratore, ma non aveva sopportato il cambio di clima, il cibo piccante, il volo autonomo della saliera che si spostava sul tavolo della sala e se ne dovette tornare a Liverpool. La successiva fu una svizzera che non ebbe sorte migliore e la francese che era arrivata grazie ai rapporti dell'ambasciatore di quel paese con la famiglia. Si rivelò così rosea, tonda e dolce, che rimase incinta di lì a pochi mesi e svolgendo le indagini del caso si seppe che il padre era Luis, il fratello minore di Clara. Severo li fece sposare senza chiedergli alcun parere e contro ogni pronostico di Nivea e delle sue amiche furono molto felici. Alla luce di queste esperienze, Nivea convinse il marito che imparare lingue straniere non era importante per una creatura con abilità telepatiche e che era molto meglio insistere con le lezioni di piano e insegnarle a ricamare. La piccola Clara leggeva molto. Il suo interesse per la lettura era indiscriminato e le facevano lo stesso effetto sia i libri magici dei bauli incantati di suo zio Marcos, sia i documenti del Partito Liberale che suo padre custodiva nello studio. Riempiva innumerevoli quaderni con le sue annotazioni personali, dove rimasero via via registrati gli eventi di quell'epoca, che grazie a ciò non andarono perduti, cancellati dalla bruma dell'oblio. E adesso io posso servirmene per far rivivere la sua memoria. Clara, chiaroveggente, conosceva il significato dei sogni. Questa abilità le era naturale e non aveva bisogno di quei noiosi studi cabalistici di cui si serviva lo zio Marcos con maggior sforzo e minor successo. Il primo a rendersene conto fu Onorio, il giardiniere della casa, che un giorno aveva sognato serpenti che gli si muovevano tra i piedi e che per toglierseli d'attorno li calpestava fino a schiacciarne 19. Lo raccontò alla bambina mentre potava le rose solo per intrattenerla perché le voleva molto bene e gli dispiaceva che fosse muta. Clara tirò fuori dalla tasca del grembiule la lavagnetta e scrisse l'interpretazione del sogno di Onorio. Avrai molti soldi, ti dureranno assai poco, li guadagnerai senza sforzo, gioca il 19. Onorio non sapeva leggere, ma Nivea gli lesse il messaggio tra scherzi e risate. Il giardiniere fece quello che gli avevano detto e guadagnò 80 pesos in una bisca clandestina che si trovava dietro un magazzino di carbone. Se li spese in un abito nuovo, in una sbornia memorabile con tutti i suoi amici, e in una bambola di maiolica per Clara. Da quel momento la bimba ebbe molto lavoro a decifrare i sogni di nascosto da sua madre, perché quando si seppe la storia di Onorio, andavano a chiederle cosa vuol dire volare sopra una torre con ali di cigno, andare alla deriva su una barca e che canti una sirena con voce da vedova, che nascano due gemelli attaccati per le spalle, ciascuno con una spada in mano. E Clara segnava senza indugiare sulla lavagnetta che la torre è la morte e chi vi vola sopra si salverà dal morire in un incidente. Chi naufraga e ascolta la sirena perderà il lavoro e vivrà in ristrettezze, ma lo aiuterà una donna con la quale avrà un affare. I gemelli sono marito e moglie costretti in uno stesso destino a ferirsi mutuamente con colpi di spada. I sogni non erano l'unica cosa che Clara indovinava. Vedeva anche il futuro e conosceva le intenzioni della gente, virtù che mantenne a lungo nella vita e col tempo le crebbe. Annunciò la morte del suo padrino, Don Salomon Valdés, che era agente di borsa e che, credendo di aver perso tutto, si era impiccato al lampadario del suo elegante studio. Lì lo trovarono, per insistenza di Clara, con l'aspetto di un montone avvizzito, così come lei lo aveva descritto sulla lavagna. Predisse l'ernia di suo padre, tutti i terremoti e altri sconvolgimenti della natura, l'unica volta che cadde la neve sulla capitale, facendo morire di freddo i poveri nelle borgate e i roseti nei giardini dei ricchi, e l'identità dell'assassino delle collegiali molto prima che la polizia scoprisse il secondo cadavere. Ma nessuno le aveva creduto e, se vero, non aveva voluto che sua figlia esprimesse opinioni su affari criminali che non c'entravano con la famiglia. Clara si accorse al primo sguardo che Getulio Armando avrebbe truffato suo padre con la storia delle pecore australiane perché glielo lesse nel colore della sua aura. Lo scrisse a suo padre, ma lui non le badò e quando si ricordò delle predizioni della sua figlia minore, aveva perduto metà della sua fortuna. Il suo socio girava per i Caraibi, trasformato in uomo ricco con un serraglio di nere culaccione e una nave propria per prendere il sole. L'abilità di Clara nel muovere oggetti senza toccarli non le passò con le mestruazioni, come vaticinava la nana, bensì andò accentuandosi fino ad avere tanta pratica da muovere i tasti del piano col coperchio abbassato. Sebbene non fosse mai riuscita a spostare lo strumento per il salotto come era suo desiderio, intenta in quelle stravaganze, impiegava la maggior parte del suo tempo e delle sue energie. Sviluppò la capacità di indovinare una stupefacente percentuale di carte dal mazzo e inventò giochi irreali per divertire i suoi fratelli. Suo padre le proibì di scrutare il futuro nelle carte e di evocare fantasmi e spiriti irrequieti che turbavano il resto della famiglia e terrorizzavano la servitù, ma Nivea capì che quante più limitazioni e paure avesse dovuto subire la sua figlia minore, tanto più lunatica sarebbe diventata, sicché decise di lasciarla in pace con i suoi trucchi da spiritista, i suoi giochi da pitonessa e il suo silenzio da caverna, facendo in modo di amarla senza condizioni e di accettarla così com'era. Clara crebbe come una pianta selvatica, nonostante le esortazioni del dottor Cuevas, che aveva portato dall'Europa la novità dei bagni di acqua fredda e delle scosse elettriche per curare i matti. Barrabas stava accanto alla bambina giorno e notte, tranne che nei suoi normali periodi di attività sessuale. Le stava sempre intorno come una gigantesca ombra silenziosa, come la bambina. Si stendeva ai suoi piedi quando lei si sedeva e di notte le dormiva al fianco con sbuffi da locomotiva. Si affiatò talmente con la sua padroncina che quando lei si metteva a fare la sonnambula per la casa, il cane la seguiva con lo stesso atteggiamento. Nelle notti di luna piena era normale vederli passeggiare per i corridoi come due fantasmi che galleggiassero nella pallida luce. A mano che il cane cresceva, si fecero evidenti le sue distrazioni. Non capì mai la natura trasparente del vetro e nei suoi momenti di emozione era solito investire la finestra al trotto, con l'innocente intento di afferrare qualche mosca. Cadeva dall'altra parte in uno strepito di vetri rotti, stupito e triste. A quell'epoca i vetri arrivavano dalla Francia per nave e la mania dell'animale di gettarvisi contro divenne un problema finché Clara non ideò la soluzione estrema di pitturare gatti sui vetri. Fattosi adulto, Barrabas smise di fornicare con le gambe del piano come faceva durante l'infanzia e suo istinto di riproduzione si manifestava solo quando annusava qualche cagnetta in calore nelle vicinanze. In quelle occasioni non c'erano catene o porte che potessero trattenerlo e si lanciava in strada superando tutti gli ostacoli che gli si paravano davanti e si perdeva per 2 o 3 giorni. Tornava sempre con la povera cagnetta appesa dietro, sospesa in aria, trafitta dalla sua enorme mascolinità. Bisognava nascondere i bambini affinché non vedessero l'orrendo spettacolo del giardiniere che lo bagnava con acqua fredda, finché, dopo molta acqua pedata e altre ignominie, Barrabas non si staccava dalla sua innamorata, lasciandola agonizzante nel cortile della casa, dove Severo doveva finirla con un colpo di grazia.